that was a good solution, hanging with the raisin girls. She's gone to the other side, giving us a yo-yo. Things are getting kind of gross, and I go at sleepy time. This is not really, this is not really happening. I nomi delle cose, la trasmissione della coordinamenta femminista e lesbica sugli 87.9 di Radio Onda Rossa. Ciao a tutte e ciao a tutti. Apriamo questa trasmissione con una frase tratta dai nostri atti del convegno sulla violenza contro le donne, fatto l'anno scorso, anzi un anno e mezzo fa, che però è riferita, è una frase di analisi generica che è riferita alla società tutta. L'odio di classe è molto forte nelle classi dominanti e si esprime attraverso la legalità, ma viene definito violenza solo se esercitato dalle classi subalterne. Allora, abbiamo aperto con questa frase per un motivo, perché oggi è andata a sentenza il processo contro Chiara, Claudio, Mattia e Nicolò, militanti Notav, che erano stati accusati di svariate cose, fra cui di terrorismo, per un'azione contro il compressore ormai diventato famoso per proprio per questo processo, per le caratteristiche che ha preso, l'attacco a un compressore che è stato addirittura personificato, è diventato gravissimo. Allora, diciamo che il processo è andato a sentenza oggi e l'accusa di terrorismo è caduta fortunatamente, però sono stati comminati ai quattro, a Chiara e agli altri tre compagni, 3 anni e 6 mesi. 3 anni e 6 mesi per danneggiamento aggravato, possesso di arma da guerra, che è riferito alle Molotov, intendiamoci, cioè queste possesso di arma da guerra, e poi violenza, resistenza e compagnia bella. Quindi una dice: ah, va bene, siamo contentissime perché almeno è caduta l'accusa di terrorismo. A parte il fatto che il sistema usa questa modalità, cioè che ti schiaccia sotto accuse che sono assolutamente fuori dimensione, no? Rispetto a quello che è successo, e poi chiaramente questo gli permette anche di dire: vabbè, allora io ti ho tolto l'accusa di terrorismo e ti ho dato soltanto 3 anni e 6 mesi, no? Ma se noi analizziamo la sentenza, cioè 3 anni e 6 mesi per cosa? Domanda. Praticamente per questo famoso mitico compressore personificato che è stato danneggiato. E ricordiamoci sempre che la resistenza civile e non violenta e pacifica, che non è questa che noi rivendichiamo, cioè non è che portiamo come esempio questa perché rivendichiamo questa, però perché anche la violenza pacifica, la resistenza cosiddetta civile eccetera, addirittura quella di Gandhi, che è stata travisata tantissimo a uso e consumo di chi vuole propagandare il pacifismo in un altro modo, prevede il boicottaggio, il sabotaggio e la resistenza di questo tipo. Dovremmo riuscire, non so se ci riusciremo, ad avere un collegamento con una compagna Notav che avevamo messo in insomma organizzato, perché questo pomeriggio alle 17:30 comunque le compagne e i compagni Notav si erano dati un appuntamento a Bussoleno per riflettere su quello che sarebbe venuto fuori. L'avevano dato prima pur non sapendo cosa e in che modo sarebbe stata come e in che modo sarebbe stata data la sentenza, però comunque l'appuntamento è stato ribadito. Se riusciamo a metterci in collegamento con lei, in qualsiasi momento vi manderemo la corrispondenza, e comunque andiamo avanti. Intanto sono necessarie alcune riflessioni e alcune note su questo concetto di terrorismo, che in effetti viene usato come un marchio itinerante, cioè viene affibbiato sul fronte interno a chi è scomodo a qualsiasi titolo, e quindi viene tacciato di terrorista colui o colei che fa delle azioni addirittura banali, come oscurare delle telecamere, manomettere dei bancomat, che sono appunto azioni di ribellione nei confronti di una di un sistema di controllo poliziesco. E questo marchio di terrorismo però sul fronte esterno viene affibbiato al male assoluto di turno, con cui poi si riescono a far passare le guerre umanitarie e gli attacchi neocoloniali, perché in questo momento per esempio il male assoluto è l'ISIS, no? Cioè l'esercito islamico. Noi al di là del momento specifico ci siamo resi conto, abbiamo analizzato diverse volte quando abbiamo trattato il tema dell'antiimperialismo, che il termine terrorista è passato attraverso, come anche il termine di dittatore, come anche il termine di regime, come anche il termine di nazista, no? Sono stati affibbiati a tutti quei governi e a tutte quelle realtà politiche che nel terzo mondo sono risultate asimmetriche agli interessi occidentali e angloamericani in particolare, e che non avevano legami specifici con una situazione, una determinazione politica precisa. Cioè si è trattato nel tempo di governi di destra, di governi di sinistra, di governi populisti, di governi socialisti, di governi vagamente libertari. L'unico tratto che contraddistingueva tutte queste realtà è la simmetria rispetto agli interessi angloamericani, e questo faceva sì che venivano di volta in volta tacciati di terroristi o, nella migliore delle ipotesi, non democratici, e quindi attaccati. Noi sappiamo benissimo che i meccanismi sono questi, ma la realtà è un'altra. I can be your lover in the night. These words are true, and we wait, wait forever for a night. Volevo leggere un trafiletto che, tanto per farvi capire come è impostata questa come è impostata questa società, dal grande inquisitore di Dostoevskij, che dice: abbiamo cura anche dei deboli, essi sono peccaminosi e ribelli, ma alla fine anche loro diverranno obbedienti. Noi li persuaderemo che diverranno liberi solo quando rimetteranno a noi la loro libertà e a noi si sottometteranno. Sempre rispetto al rapporto con gli oppressi e a come viene affrontato il rapporto con gli oppressi, è interessante per esempio vedere come vengono chiamati, no? Tutte queste considerazioni ci vengono appunto da come viene affrontata la lotta Notav, ma anche poi tutta la dissidenza, gli antagonisti e compagnia bella, però chiaramente in questo momento la lotta Notav è emblematica. Per esempio, facinorosi, come Cicerone aveva definito i seguaci di Catilina, disumani, valeva per Spartaco e gli schiavi ribelli, nemici della società, venivano definiti i contadini e i servi della gleba che si rivoltavano, criminali, sostantivo preso dall'epoca vittoriana, scioperati, lessico ottocentesco per tutti quelli che erano contro le condizioni disumane di lavoro di quella volta, banditi, usato per i partigiani italiani, senza Dio e senza patria, gli operai di Reggio Emilia. Queste qui sono tutte definizioni che sono state date nel tempo. Distruttori, i ragazzi con la maglietta striscia di Genova, violenti, i movimenti del 68 e 77, e infine terroristi, parola magica che permette qualsiasi cosa. questi dadi non segnano mai più di 10, fanno così per non compromettersi. La stanza in cui vivo è un dado, ma non ho abbastanza mani per tirarlo lontano. D'ossigeno devo ancora imparare a respirare, ma mi va bene così e non ho tempo per cambiare. Poi ho sempre in me, ho sempre in me. Allora, dato che il collegamento con la compagna Notav tarda, abbiamo difficoltà a metterlo in atto, facciamo un cambiamento di programma. Cominciamo subito con la seconda parte, perché così se dovesse venire il collegamento alla fine non rubiamo spazio alle compagne del Virgilio che sono venute qua apposta, e ci fa molto piacere parlare con loro. Prima di tutto, ciao. E ho aperto tutti e due i microfoni, quindi ce l'avete tutti aperti. E questo incontro nasce dal fatto che durante l'occupazione al Virgilio che c'è stata qualche giorno fa, insomma settimana scorsa, alcune della coordinamenta sono state lì in occupazione e ne è venuto fuori un incontro di genere, sul genere, ma in ambito misto, vero? Era sulle problematiche di genere, che hanno abbracciato però argomenti molto molto vasti. Prima di tutto, vabbè, questa è una cosa che a noi fa piacere sempre affrontare, cioè che cos'è per noi il femminismo materialista, e quindi ci ha fatto piacere portare come strumento di conoscenza e di informazione lì in riunione, in assemblea, che cos'è per l'accordinamento il femminismo materialista. E comunque abbiamo fatto una scaletta sugli argomenti che sono stati affrontati. Ve la leggo in maniera rapidissima, perché poi diamo la parola alle studentesse del Virgilio che ci diranno loro che cosa è successo, quali sono gli argomenti che sono venuti fuori in maniera più prepotente e comunque quello che è interessato loro di più. Allora, ha interessato l'incontro i rapporti strutturali fra patriarcato e capitalismo, attraverso l'analisi delle modificazioni della famiglia, del lavoro domestico, della morale sessuale, il genere come prodotto storico e i ruoli sessuati nella società e nel movimento, le contraddizioni interne al femminismo socialdemocratico e a qualsiasi analisi femminista che sfoci in lotte corporative o che si fondi sul femminismo, sul determinismo biologico, poi il corpo come terreno di analisi e di autodeterminazione, il corpo come veicolo dell'ideologia dominante, eteronormazione attraverso l'imposizione di modelli di femminilità, loro introiezione da parte delle donne stesse. In particolare racconta l'analisi di quei modelli stereotipati percepiti dalle giovani come maggiormente oppressivi. Poi la sessualità, analisi della classica dicotomia santa puttana e problematizzazione dei comportamenti individuali e di gruppo che la riproducono, anche in virtù dell'assunzione di pratiche cosiddette politicamente corrette e anche pratiche che investono il linguaggio, conflitto fra desideri e percorso di liberazione, centralità dell'autodeterminazione intesa come tensione costante del discorso femminista, differenze fra movimenti gay e movimenti lesbici, necessità di riscoprire una solidarietà tra donne come presupposto e risultato di pratiche di auto-organizzazione. Quindi problemi vastissimi, un mare, sono venute fuori un mare di cose, e quindi però praticamente la cosa più importante è chiedere a voi come è cominciata questa assemblea e che cosa è venuto fuori, come così di primo acchito, dal fatto che questa era in effetti il risultato di un'occupazione, per esempio, e quindi ci saranno stati dei presupposti per un'indagine sui rapporti di genere, per esempio. Sì, questo incontro è nato sia da esigenze nate durante l'occupazione, ma anche in realtà da discorsi pregressi all'occupazione. Come per esempio, diciamo, la discussione sulla retorica delle quote rosa, no? Siamo trovati a discutere un POF, che è il piano d'offerta formativa, dove diciamo venivano presentati questi corsi universitari di materie scientifiche e informatiche principalmente, anzi unicamente, per donne. E questo intanto è stata una cosa divertente, perché ha portato a introdurre una discussione anche ovviamente i ragazzi del nostro liceo, e poi perché nasceva proprio una discussione su questa retorica delle quote rose: ci interessano o non ci interessano. A livello scolastico siamo detti sì, sarà un modo per forse per aiutarci, ma non ci interessa, perché noi vogliamo andare a decostruire ovviamente dei modelli che partono dall'infanzia. Non sarà dandoci un contentino e negando poi un'autodeterminazione reale che ci renderà più intelligenti. E poi abbiamo discusso anche di movimenti esterni alla scuola, come per esempio Se non ora quando, che appunto propongono queste quote rosa, che secondo noi sono poi non soltanto inutili, ma sono una mistificazione del reale, no? Perché certo, tu proponi in ambito istituzionale, quindi in un ambito già alto, l'oscuramento di un problema che poi è reale, perché come sappiamo poi il femminismo si fa dal basso, non si fa dall'alto. Diciamo che una cosa interessante, prima che hai sfiorato, mi ha stuzzicato la curiosità, questa dei corsi di informatica soltanto per ragazze, nel senso che le ragazze sarebbero state quelle che avevano più carenze in questo senso? No. La questione è questa, che fondamentalmente a livello universitario, nelle materie scientifiche, o almeno queste branche, c'è un'iscrizione minore rispetto, soprattutto informatica, è una facoltà prettamente maschile, come alcuni corsi di laurea. E quindi cosa stanno tentando di fare? Soprattutto per ovviamente incentivare a iscriversi a quei corsi, non è un, cioè, nel senso, è una questione di marketing, non è un, ormai l'università è un'azienda, funziona come un'azienda e fa dei pacchetti di offerta formativa che equivalgono più o meno ai pacchetti, non so, per convincerti ad andare in vacanza qua o invece che là, più o meno il discorso è questo. Quindi, dato che l'informatica rimane per ora una materia più ostica alle ragazze, perché c'è ancora questa divisione per cui le ragazze fanno le materie umanistiche. Infatti è questo il problema che mi aveva stuzzicato, cioè il fatto che le ragazze vengono considerate quelle che fanno le materie umanistiche, che fanno poca, ma cioè è un vecchio discorso questo, è una delle cose che le prime femministe hanno detto, che le ragazze sanno fare matematica come i maschi, Sì, infatti è venuta a crearsi questa discussione anche in concomitanza alla problematica della rappresentanza di istituto del nostro edificio scolastico, composta solamente da quattro ragazzi, e quindi si è creata, diciamo, una discussione su questo anche da parte dei professori, degli insegnanti, ma anche da parte della presidenza. Quindi si è discusso di questo in concomitanza col discorso delle quote rosa e di questa cosa del corso di informatica, e si è venuto appunto a scoprire questa, diciamo, opposizione tra le due fazioni, cioè tra chi sostiene le quote rosa e chi invece è contro le quote rosa. Perché appunto i sostenitori delle quote rosa di solito si sente dire che è per tutelare appunto la parità dei sessi all'interno di organi rappresentativi, ma c'è appunto chi è contrario, dice che è più una discriminazione questa di riservare posti precisi per il sesso femminile che appunto queste queste quote rosa che si propongono proprio come, come antidiscriminatorie, sì, sì, si rivelano la stessa cosa dei disabili, con molto rispetto per, esatto, i disabili, ma lo spirito, esatto, si rivelano è una mistificazione e nonché anche un perbenismo che si è verificato anche la giornata della, internazionale della violenza contro, contro la violenza sulle donne, e in cui noi abbiamo, ci siamo, diciamo, organizzati, ma molto velocemente, perché appunto era il periodo poco prima del, dell'occupazione della nostra scuola, quindi per fare un intervento su, su questa cosa. Però dopo il nostro intervento al megafono c'è stato proprio un, cioè tutti, vabbè, a parte il vestirsi di rosso, su cui comunque si può discutere, un'altra, è un altro punto, comunque hanno messo la musica, si sono messi in cerchio appunto a ballare le canzoni di Bob Marley, No Woman No Cry, se si può, insomma, ci sarebbe da discutere su questa, che sarebbe un perbenismo, per dirla proprio, certo, in maniera. Senti, mi è venuta in mente un'altra cosa, sempre a proposito del discorso introdotto prima, ma per esempio in assemblea il, i rapporti della militanza all'interno dei gruppi politici o comunque dei gruppi di militanza studentesca che ci sono lì dentro? Ovviamente anche nei movimenti la questione di genere rimane una questione forte per vari motivi, un po' per un atteggiamento politicamente corretto da parte dei compagni che ormai non sanno non ammettere che hanno ovviamente atteggiamenti stereotipati, o che se lo ammettono rimediano con un femminismo, che è il femminismo della differenza, che poi non ci rappresenta. Quindi ci troviamo o compagni nettamente maschilisti ma che tengono un po' la situazione spacciandosi per femministi convinti, oppure con dei cavalieri che ci offrono appunto di candidarci al posto nostro alla rappresentanza d'istituto o a tutelarci contro i fascisti. Quindi c'è sempre una, un problema anche nel determinarsi, nell'autodeterminarsi come donne nei movimenti, per il fatto che un novello femminismo cortese, certo, che poi anche, cioè, anche il vago femminismo, se vogliamo chiamarlo così, che i compagni riescono a, a rendere proprio, è sempre un femminismo che non ci appartiene, il femminismo più fruibile, che è quello magari se non era quando, che è quello appunto delle, delle quote rosa, del femminismo della differenza, non rendendosi conto che poi anche il discorso che facevi tu prima sul, anche sul terrorismo dei notab, è una cosa strettamente intrecciata poi al femminismo, e al femminismo inteso come femminismo materialista, no? Quindi perdono anche il contatto con questo intreccio fra questioni di genere e questioni di classe. Per esempio avevamo parlato anche in altri incontri di delle misure di sicurezza inserite nel, nei provvedimenti contro il femminicidio, che poi forse hanno influenzato, certo, anche la dinamica fra polizia e notab in Valsusa. Oppure abbiamo ospitato un'assemblea sulla Palestina e sul conflitto Israele-Palestina, e anche lì l'ISIS, questo mostro dell'ISIS, è utilizzato anche in quanto islamico per strumentalizzare la donna, dicendo noi Israele siamo il popolo democratico, siamo il popolo avanzato, tuteliamo la figura femminile, loro sono i mostri perché hanno una, un rapporto di genere arretrato, ed è sempre una scusa per l'imperialismo e per il colonialismo per andare avanti, no? Quindi sempre rimarcare magari questi intrecci è anche il modo migliore per avvicinare questi compagni che sono un po' confusi, forse. Certo, ma questo per esempio mi fa venire in mente il fatto che quanto sia importante lo scambio generazionale, perché queste modalità con esiti diversi e con anche un substrato diverso, perché appunto adesso molti compagni fanno i politicamente corretti, no? Si comportano in maniera secondo loro giusta, eppure ribadisce l'esperienza per esempio che ho fatto io negli anni di lotta continua, quando nelle assemblee le ragazze non è che non parlassero, non potessero parlare, anzi erano anche abbastanza numerose. L'unica cosa è che una ragazza di suo era meno abituata a parlare in pubblico e aveva un retroterra che l'aveva meno preparata a un rapporto con il politico e con, quindi con tutta questa modalità di rapportarsi con gli altri, e poi oltretutto doveva anche dimostrare molta più preparazione, molta più determinazione per essere ascoltata. E questo tipo di cose sono state le prime che hanno fatto sì che ci sia stata una crescita man mano, sempre una di consapevolezza da parte nostra, e quindi man mano una presa di coscienza del fatto che la differenza non era cioè la differenza di genere non era biologica, ma era una costruzione sociale, per cui noi veniamo, il nostro modellino femminile viene costruito così, e non è che noi siamo più sensibili, più timide, meno portate per la matematica e per l'informatica, è che da noi il modello sociale vuole tutta un'altra serie di cose e tutta una serie di atteggiamenti che invece magari ci sarebbero anche congeniali vengono tarpati. Per esempio, mi ricordo prima, parlando con voi mentre aspettavamo la trasmissione, che diceva che dicevate se una ragazza si esprime in maniera forte e abbastanza determinata, insomma, o comunque ha delle reazioni violente, le danno dell'isterica. Sì, infatti un problema si riscontra nel momento tuttora, è il fatto che per farsi valere in assemblea bisogna cercare di aderire a un livello maschile, lo dicevamo prima, e però si esaspera una mascolinità e ovviamente vanno a prevalere gli uomini, perché non sia un'esasperazione del modello femminile che quello di maschile, comunque non porta a nulla. E poi nel momento in cui magari una donna prende, diciamo, parole più forti o comunque è aggressiva, è considerata isterica, comunque una pazza scocciata che sbrocca senza motivo, mentre nel momento in cui è il ragazzo sei tu che non ci capisci niente, lui che poverino si è arrabbiato e ovviamente ha ragione, mentre tu rimani la pazza isterica che si arrabbia. Sia sospeso fino a quando non ci rivedremo. Ho visto solo stelle buone sulla tua pelle. Se tornerai domani saprò darti quelle perse. Lascerò che tutto sia sospeso fino a quando non ci rivedremo. Tattoo of the fingerprints on me from you. Other evidence has shown that you and I are still alone. We skirt around the danger zone and don't talk about it later. While Lena watches from the wall, her mocking smile says it all as she records the rise and fall of every soldier passing. But the only soldier now is me. I'm fighting things I cannot see. Scusate l'interruzione, ritorniamo in diretta, c'era una telefonata e la compagna stava dicendo qualche cosa sempre a proposito di questo. Sì, stavo dicendo che anche quando viene a negarsi questa cosa, quando si prova a contrastare la cosa di cui stava parlando prima Vittoria, si viene a creare una situazione che, diciamo, si può ricollegare a quello che dicevamo prima, cioè il femminismo tra mille virgolette del se non ora quando, cioè che si può anche ulteriormente ricollegare a uno dei punti elencati da te prima, che sarebbero le contraddizioni interne al femminismo socialdemocratico e a qualsiasi analisi femminista che sfoci appunto in lotte corporative e o che si fondi sul determinismo biologico. Cioè io non è che io sia appunto sensibile oppure non voglia prendere parola perché sono troppo devo attenermi a questo modello di femminilità e di tranquillità, ma proprio perché appunto magari ho delle difficoltà a esprimermi in pubblico, eccetera, allora vengo considerata appunto cioè come se volessi appunto mettere il mio sesso prima di quello maschile, cioè se mi infervorisco su queste cose, appunto molte volte si viene a creare questa situazione, quando invece è proprio il localizzare i due sessi sullo stesso piano e viene frainteso e travisato. Volevo un attimo spendere una parola sulla telefonata che aveva preso, che ci hanno fatto un attimo fa. Allora, noi non prendiamo in diretta le telefonate maschili e quindi fa parte della nostra di una nostra scelta di trasmissione. Però non so che domande erano state poste dall'ascoltatore e quindi ce lo può dire un attimo Noè, che ha preso la chiamata. Allora, ci riportavano il fatto che non abbiamo accusato i compagni di comportarsi in maniera scorretta nei nostri confronti e che non c'è contraddittorio. Io, come ho detto al compagno, ovviamente la decontestualizzazione anche dei nostri racconti è fatta anche perché appunto sono esperienze personali che fanno parte purtroppo del nostro quotidiano e sono continue. I contraddittori in generale come collettivo non ci piacciono, perché veniamo da un'esperienza in cui siamo cresciute in scuole in cui potevamo parlare solamente se c'era il contraddittorio. Questa trasmissione in realtà si basa proprio sul fatto di poter parlare, di esprimersi. È un programma femminista, materialista, quindi ovviamente sull'attualità abbiamo sempre portato comunque fatti concreti da discutere. Anche questi, per quanto ci riguarda, partono da noi, quindi insomma mi sembra la base del femminismo, e ovviamente penso che non c'è riferimento a coloro che non si comportano in questo modo, ma purtroppo questo esiste. Dispiace dirlo, però secondo noi va anche detto in maniera, in questa maniera, e non in maniera appunto da processare esattamente chi fa questo, a meno che direttamente nel momento, certo, però parlarne dopo serve anche a poter discutere e pensare, a mettersi in discussione anche i propri compagni, le compagne e chiunque abbia vissuto quel tipo di realtà. Non parlarne o parlarne esclusivamente nel contraddittorio, per quanto mi riguarda, è limitante e poi schiaccia tutta la questione in realtà tra un confronto tra persone che non so, cioè va bene per tante altre cose, però per quanto mi riguarda qua la denuncia deve essere forte e chiara, e quindi sì, deve essere senza contraddittorio, come cioè nel senso non su molte cose non scendo a compromessi e su questa narro senza compromessi. Probabilmente poi basta accendere qualsiasi altra radio al momento per ottenere il contraddittorio, quindi diciamo che si ascolta un po' ovunque, non c'è bisogno che lo facciamo noi probabilmente. Poi mi dispiace che la mia incapacità di gestire il telefono ha fatto cadere la linea, non volevo, se vuole richiamare ovviamente risponderò di nuovo. No, va bene, gliel'ho detto io comunque che non era colpa nostra e che non avremmo mai chiuso la telefonata, solo che la dovevamo prendere dall'altra parte. Allora, riprendiamo noi, altrimenti ci perdiamo il filo. Quindi dicevamo che chiaramente nell'ambito della discussione politica, quindi queste cose vengono fuori. Queste cose vengono fuori, ovviamente viene fuori anche un discorso, diciamo, di genere, che ragioni anche poi sulle difficoltà maschili in questo, che a noi sono ben presenti, nel senso un uomo che non può piangere, un uomo che non può essere umano. Quello che poi però bisogna sempre notare è che se l'uomo rinuncia a una parte, tra virgolette, di umanità, lo fa per ottenere un riscatto sociale, a cui è più difficile rinunciare. Noi sicuramente, nonostante tutti, anche se ci adeguiamo al nostro modello femminile, quel riscatto sociale non lo abbiamo mai, perché ci dobbiamo adeguare a un modello che è subalterno, intrinsecamente subalterno, per cui c'è anche questo fattore. Poi ovviamente i compagni solidali con noi esistono, ma di certo sono io in quanto donna a poter esprimere con un po' più di consapevolezza questo disagio piuttosto che un qualsiasi altro compagno. Certo, ma c'è un problema che viene fuori sempre in queste occasioni, cioè il fatto che ci sia un'analisi precisa e una consapevolezza della costruzione dei modelli maschile e femminile non è mica un'accusa diretta ai maschi. Voglio dire, la costruzione del maschile e del femminile è una costruzione sociale, e essendo una costruzione sociale è funzionale a un modello socio-economico. Questo modello socio-economico prevede un rapporto di genere squilibrato, per cui c'è c'è una parte dominante e una parte dominata, e questo è funzionale al meccanismo del controllo del lavoro riproduttivo, è funzionale al meccanismo del controllo e dello sfruttamento del lavoro di cura. Quindi l'accusa non è diretta, però prendere consapevolezza di questo è il primo passo per poter gestire i rapporti di genere anche in una maniera corretta. Certo, tant'è vero che anche un ragionamento che abbiamo fatto su questo femminismo istituzionale di Se non ora quando è stato proprio il fatto che, nonostante femministe, e quindi nonostante siamo abituate giustamente a non porci in contraddizione fra di noi e in competizione fra di noi, c'è il fatto che, essendo la lotta di classe intrinseca, insomma, intrecciata alla lotta di genere, se noi andiamo poi ad accettare un femminismo fatto da chi diciamo incoraggia questo modello neoliberista, ci stiamo, diciamo, stiamo opprimendo, stiamo tarpando le ali alla nostra stessa lotta. Quindi ovviamente ci sono delle donne complici certo, del modello neoliberista, e quindi complici della divisione dei ruoli anche nella questione di genere. Quindi forse se devono accusare delle femministe di accusare unicamente i compagni maschi, non siamo quelle giuste, evidentemente. Ecco, no, però ecco, appunto, io consiglio per esempio a questo compagno di leggersi un libro che si chiama Il grande Calibano. È un libro che non c'è più in commercio, è dell'85, però si può trovare in rete, quindi se uno scrive Il grande Calibano lo trova e lo può stampare, ed è praticamente un'analisi del passaggio del modello, della costruzione dei modelli, in particolare femminile. È un libro di Silvia Federici e Leopoldina Fortunato, e quindi l'ottica è di genere, però è l'analisi del passaggio della costruzione dei modelli maschile e femminile dalla società precapitalista alla società capitalista, e quindi fa vedere proprio come si innescano meccanismi che portano alla costruzione attuale, ai modelli femminili e maschili che abbiamo noi adesso. Tant'è vero che si dice che mai come nel capitalismo il maschile è stato tanto maschile e il femminile è tanto maschile, tanto femminile, perché il capitalismo ha come prerogativa la ruolizzazione molto precisa per lo sfruttamento massimo delle persone messe al lavoro. Quindi il nostro lavoro è quello riproduttivo e di cura, e lo sfruttamento massimo significa l'inserimento massimo nel ruolo. Sì, a questo proposito abbiamo anche affrontato il tema di queste grandi aziende che propongono alla donna incinta o comunque che vuole avere una gravidanza, anziché di poter avere dei barlumi di stato sociale, di assistenza sociale, può congelare i suoi ovuli per non mancare al suo intento di madre riproduttrice, ma neanche di lavoratrice sfruttata. Quindi sono proprio una serie, certo, di paradossi. Lo sfruttamento su tutti i piani. Certamente. E in più abbiamo anche ragionato su questo progresso della condizione femminile che c'è a livello giuridico, cioè noi possiamo votare, possiamo studiare, a scuola usciamo dalla stessa porta e entriamo dalla stessa porta e stiamo nella stessa classe, però sappiamo che questo modello, diciamo, è avanzato in ambito giuridico anche con una forte strumentalizzazione da parte delle istituzioni, che poi però non rispecchia la reale vita delle donne, no? E abbiamo individuato forse anche un po' il rapporto con il corpo come un rapporto diretto che può, diciamo, liberarsi da queste sovrastrutture mistificatorie, e quindi è stato forse il primo ragionamento che ci ha portato a dire: no, la questione di genere è una questione ancora da affrontare. Allora, Abbiamo avuto un'altra telefonata e un compagno che insomma ci fa i complimenti, che è completamente d'accordo con noi e addirittura ci ha detto una cosa che insomma mi ha fatto piacere sentire, che appunto lui sostiene che dobbiamo continuare a fare la nostra lotta femminista separata, proprio perché è giusto ed è la mira verso il tiro è giusto, insomma il percorso è giusto, e quindi insomma fa comunque piacere condividere queste cose con i compagni e con chi fa il nostro stesso percorso. E ha preso spunto ovviamente, visto che Eli ha consigliato un libro, lui consigliava il libro Dalla parte delle bambine di Elena Bellotti, Elena Gianni Bellotti, scusate, che si trova insomma in circolazione in tutte le librerie, insomma è stato ristampato più volte. Sì, è un classicissimo proprio, è anche molto diciamo semplice, diretto. Sì, e fra l'altro smonta la retorica di Quate Rosa, in quanto fa capire che quel modello da cui ci dobbiamo liberare attraverso l'autodeterminazione nasce fin da piccole, analizzando appunto tutti i processi attraverso cui questo modello viene imposto fin dai primi mesi di vita, e in più diciamo scardina anche il femminismo e la differenza in fondo, perché fa un ragionamento molto acuto che è che in fondo tutte queste qualità che ci attribuiscono in quanto migliori rispetto a quelle maschili sono, a parte che qualità costruite, anche qualità tipiche dell'oppresso. Cioè lei faceva il ragionamento sul fatto che una donna forse è più sensibile perché deve stare attenta alla reazione che può provocare nell'interlocutore che ha davanti, no? Perché un po' perché deve aderire il suo ruolo per avere consenso sociale, e un po' perché anche a livello fisico si deve difendere. Quindi come faccio a non farti arrabbiare? Sto attenta alle tue reazioni, forse divento più sensibile. Quindi è molto divertente come forse alcuni tipi di femminismo e la differenza portano poi a enfatizzare delle qualità che sono tipiche della nostra oppressione, da cui noi dobbiamo scardinarci e non prendere a modello per diciamo dare anche adito a questa mistificazione per cui sembra che il femminismo sia un sessismo all'incontrario. Ecco, che poi c'è anche tutta una retorica della debolezza femminile, che è anche questa costruita, perché prima di tutto noi come prodotto sociale diventiamo anche un risultato biologico, nel senso che nel tempo, non usando la forza e non essendo abituate a mettere in atto dei meccanismi fisici, ci disabituiamo anche a usare il nostro corpo in un certo modo. Quindi anche questa della mancanza di forza da parte delle donne, della debolezza del cosiddetto gentil sesso, anche questa è una cosa da destrutturare, perché se noi coltivassimo le nostre qualità fisiche dall'infanzia in altro modo, arriveremmo a ben altri risultati, nel senso che riusciremmo anche a essere alla pari, anche se appunto tutte queste cose comunque sono tutte secondarie, o comunque sono tutte è tutto un qualcosa all'interno di questo famoso modello, che è funzionale all'impostazione economica. Cioè non è che nulla di quello che ci succede nel sociale è qualcosa che può essere estratto e considerato da solo. Se cambia il modello economico, si adeguano le modalità con cui vengono costruiti anche i rapporti tra i sessi, per cui qui entra in gioco tutto il discorso culturale che fa un certo tipo di sinistra socialdemocratica, per cui la violenza sulle donne dovrebbe essere eliminata con un sereno rapporto fra i sessi e comunque con una crescita culturale dei soggetti violenti, o comunque dei maschi magari presi fin da bambini. È come se io andassi nelle scuole e dicessi che bisogna essere buoni e che la guerra è una brutta cosa, dopodiché i meccanismi per cui la gente va in guerra, fa la guerra, le guerre vengono scatenate, non sono certo per il fatto che da bambino non sei stato educato nella maniera giusta. Sì, riguardo alla reazione invece degli uomini e delle donne nei confronti della violenza sulle donne, molte volte questa cosa viene utilizzata proprio a discapito della tutela della reazione delle donne alla violenza. Cioè, per esempio, se sento spesso dire che se una donna fosse stata educata fin da bambina, appunto, per esempio a un'autodifesa, magari sarebbe stata in grado di reagire a un tipo di violenza sessuale nel momento in cui si fosse verificata. E quindi, appunto, molte volte c'è sempre questa cosa del fatto che se la donna non reagisce alla violenza, un po' comunque le è piaciuto, un po' lo voleva, ma e molte volte sia da uomini che da donne le donne vengono considerate poco coraggiose se non prendono iniziativa, se non cercano di difendersi nel momento della violenza sessuale, e questo è completamente deleterio, anche perché da parte delle donne molte volte se non c'è una reazione e successivamente vengono definite in questa maniera, c'è una mortificazione totale che si aggiunge appunto completamente alla distruzione psicologica e fisica della donna che ha subito la violenza. Certo, è chiaro che avere una base di autodifesa, che l'autodifesa poi non è un problema fisico, anche fisico, ma l'autodifesa è un problema mentale, cioè nel senso che una impara a porsi in un certo modo, a rispondere in un certo modo, a porsi fisicamente in un certo modo, non subalterno ma di contrapposizione aperta, e quindi non remissivo, a rispondere in un certo modo. Quindi tutte queste cose sono utili, però ciò nonostante il problema è strutturale, non è un problema, perché altrimenti che cosa succede? Ci si ribalta ancora un'altra volta contro, nel senso che se le donne subiscono violenza è perché non si sono adeguatamente sapute difendere, come dicevi tu, non si sono messe in condizioni di essere sufficientemente istruite, colte, consapevoli, autodeterminate, così insomma dall'aggressione e dal subire violenza diventiamo anche quelle che se la sono cercata, insomma, no? Esatto, e questo infatti si collega anche appunto al punto che avevi tra quelli che avevi elencato del corpo come terreno di analisi e autodeterminazione, che appunto c'è proprio questa imposizione dei modelli di femminilità e introiezione di essi dalla parte delle donne stesse. Cioè, io donna mi impongo io stessa un modello femminile a cui mi devo attenere, a cui devo aderire, e di conseguenza quindi anch'io mi autocritico nel momento in cui magari non riesco a difendermi, non riesco a reagire a un tipo di violenza, sia fisica, psicologica, insomma sessuale, di qualsiasi tipo sia. Allora, noi siamo molto contente di questo incontro che abbiamo fatto e speriamo di rivedervi, perché chiaramente non so se vi siete resi conto che è andata via un'ora e abbiamo un mare ancora di cose da dire e di cose da affrontare. Quindi io non so se voi poi nel vostro percorso politico all'interno del liceo avete intenzione di fare altri incontri, dibattiti, affrontare il tema in questo senso, però comunque se vi andasse ci farebbe molto molto piacere. Ecco, intanto vi ringraziamo tantissimo e diamo la parola a Noemi per delle comunicazioni di altro tipo. Grazie. Ciao. Ciao. Ciao. Lightning struck a while ago, blazing much too fast. But give it rain of waiting time, and it will surely pass. And it will surely pass. Allora, volevo intanto, mentre vi volevo dire delle cose, però volevo intanto ricordarvi che per sottoscrivere Radio Onda Rossa il conto corrente postale è 61 80 400 quindi 4001, intestato a Cooperativa Culturale Laboratorio 2001, via dei Volci 56, 00185 Roma. Il sito è www.ondarossa.info. Questa è 87.9. Noi siamo la Coordinamenta. Ci potete leggere, e sentire tutte le trasmissioni su il nostro blog coordinamenta con due o.noblogs.org. E la nostra mail è coordinamenta.autistiche.org. Chiocciola, oggi non ci sto. Allora, e io in chiusura vi volevo raccontare la giornata di sabato 13 a Montemario. Per chi non lo sa, nel quartiere di Roma Nord i fascisti avevano indetto una fiaccolata contro gli zingari e il degrado. Questo in realtà era l'ultimo passaggio dopo aver bloccato due settimane fa circa l'entrata a scuola dei bambini che partivano dal campo Rom per andare a scuola. Il campo di via Cesare Lombroso. Ovviamente, insomma, le forze democratiche di zona non sono riuscite nemmeno a far togliere, capito, un manipolo di fascisti per far andare a scuola dei ragazzini. Ovviamente i genitori non si sono accollati di farli uscire dal campo, perché insomma, ma ci mancherebbe altro, insomma, che mando un ragazzino di 8 anni a scontrarsi con i fascisti quando le forze democratiche di zona si sono presentate alle 10 di mattina, quindi insomma 2 ore dopo il tutto. E noi abbiamo tentato di lavorare sia col campo Rom e con tutte le strutture di zona, le occupazioni abitative, e abbiamo convocato un'assemblea cittadina in cui abbiamo deciso che avremmo tolto e impedito di convocarsi nella piazza ai fascisti. In realtà sta girando un comunicato che è abbastanza buono, e anche sul nostro sito c'è un contributo. E quello che volevo dire è che fondamentalmente la nostra determinazione, ma in un quadrante esattamente come quello di Roma Nord, dove fondamentalmente loro circolano e fanno ciò che vogliono senza nessun problema, perché tutti glielo permettono, perché nessuno ha... È un quadrante molto grande, siamo pochi almeno dal punto di vista organizzato, quindi è sempre stato molto complicato fare qualcosa anche quando stavamo nelle scuole. Territorialmente ci sono stati spesso scontri con i fascisti, quindi insomma è stato un continuo. Il nostro antifascismo ovviamente non si ferma alla giornata di sabato 13, ma sabato 13 in realtà un po' ci ha dato, diciamo, ci ha fatto un po' sentire bene, perché appunto abbiamo visto tanti compagni e compagne partecipare insieme, unite e compatte contro il fascismo, contro quello che rappresentano, contro il fatto che comunque la loro connivenza con le guardie, con le istituzioni, cioè è talmente palese ormai. Sicuramente Mafia Capitale ha fatto uscire fuori su carta, no, nero su bianco, quello che noi già immaginavamo e non avevamo forse neanche bisogno di sapere, perché non c'è bisogno di sapere quanto il fascismo e il capitalismo siano legati tra di loro, e anzi il fascismo sia il cane da guardia che viene sguinzagliato al momento giusto dal capitalismo per tenerci a bada. Ma non ci sono riusciti. Certo, il risultato può sempre migliorare, questo lo dico perché appunto vorrei sempre di più, lo diciamo sempre, vogliamo tutto e ce lo prenderemo, e anche in questo caso vorremmo fare di più, e nonostante siamo contenti che in un quadrante del genere abbiamo rovinato la festa di questi qua, perché non so proprio come definirli, a parte fascisti. Ci siamo ripresi il nostro spazio e quindi adesso vi lascio in chiusura la parentesi di Elisabetta e vi saluto. La parentesi di Elisabetta. Ciao a tutte e ciao a tutti. Inventarsi la giornata. Il capitalismo, nella sua essenza autoespansiva, ha la necessità di distruggere le economie di autosussistenza e marginali. La distruzione delle economie di sussistenza comporta le guerre umanitarie, maniera elegante per giustificare il furto delle materie prime dei paesi del terzo mondo e la strumentalizzazione del tema dei diritti civili e in particolare di quelli delle donne, perché con questa scusa vengono scatenate in quegli sfortunati paesi guerre interetniche e religiose che mandano al potere governi obbedienti ed asserviti all'Occidente, quasi sempre integralisti e fondamentalisti, con l'affossamento dei tentativi di costruzione di società che rivendicano laicità ed indipendenza. La distruzione dell'economia marginale è propria dei paesi a capitalismo avanzato e qui da noi si manifesta con la criminalizzazione dei lavori di risulta che servono alla sopravvivenza materiale immediata di persone e famiglie, naturalmente con nobili motivazioni. I parcheggiatori abusivi sarebbero violenti e vengono equiparati a quelli che chiedono il pizzo, ma guarda caso vengono sostituiti con società che sono autorizzate a gestire i parcheggi e che a loro volta magari fanno parte di filiere che si occupano dei campi più disparati. I bagarini, che non si sa che danno possano fare, vengono denunciati, multati, i loro biglietti sequestrati. Lo spettatore però non ha nessun vantaggio, anzi non può più comprare il biglietto all'ultimo momento, bensì con l'aggravio del costo del diritto di prevendita, che viene da autorità incluso nel biglietto stesso. Poi ci sono i cosiddetti venditori abusivi, che non sono altro che povera gente che cerca di sbarcare il lunario mettendosi ai margini dei mercati e che sono oggetto di veri e propri raid con sequestro della mercanzia, con scene di disperato dolore che sfociano qualche volta nel suicidio anche con modalità forti come il darsi fuoco. Queste situazioni sono molteplici e si trovano negli ambiti più disparati, ma il tratto che le unifica è la necessità, non la scelta, di mettere insieme il pranzo con la cena e magari di mangiare almeno una volta al giorno. La lettura della società divisa in classi espulsa dal linguaggio e dall'immaginario. La povertà è una colpa dovuta a incapacità, indolenza, indole indocile e asociale. E l'umana pietà è stata asfaltata in nome della logica del profitto. I lavavetri sono letti come assillanti scansafatiche, chi chiede l'elemosina come partecipe di fantomatici racket malavitosi con quantità di denaro nascoste sotto il materasso, i rom come ladri asociali sfruttatori di bambini. Ma pensate veramente che a qualcuno e a qualcuna faccia piacere andare in giro tutto il giorno con la pioggia e col sole a prendere gli insulti della gente? Gli africani e le africane scappate dai loro paesi, dove la piccola proprietà agricola è stata smantellata dalla rapacità delle multinazionali occidentali, dove le bidonville delle città si sono ingrandite a dismisura per la fuga da campagne ormai incoltivabili, approdano da noi nella speranza di trovare occasioni per sopravvivere e magari per aiutare la famiglia, anche perché abbiamo fatto loro credere che noi siamo paesi felici, buoni e ricchi, e invece trovano rastrellamenti, detenzione amministrativa, rimpatri forzati e guerra fra poveri. Ma in un crescendo non rossiniano ma uscendo e violento si dà la caccia ai falsi invalidi o a chi continua a riscuotere la pensione della nonna morta, come se ci fosse qualcuno che non preferirebbe invece un lavoro vero al vivere di espedienti. Ma guarda un po', la maggior parte di questi casi si trovano al sud, come se questo fosse dovuto a una caratteristica propria della gente meridionale. Si introduce così, oltre alla condanna sociale, anche un forte connotato di razzismo e si dimentica che tutto ciò è legato al ritardo economico di quelle aree geografiche, nato in concomitanza con l'Unità d'Italia, che ha ridotto e trattato quei luoghi come colonie interne. E allora, una volta smascherati e tolso il sussidio dell'invalidità civile, di cosa campano? Andranno a ingrossare la schiera di quelli e quelle che non hanno casa, che sono costretti a vivere nelle roulotte, nei campi di accoglienza, che tanti coglienti non sono. Le economie marginali vengono perseguitate come vere e proprie forme delinquenziali e il neoliberismo instaura business sugli emarginati attraverso onlus e ONG, associazioni e centri studi, perché tutto viene perseguito, inglobato, controllato e poi messo a profitto. Ma i veri delinquenti sono quelli che dirottano le ricchezze del paese, che pure ci sono, verso gli apparati industriali militari, le forze di sicurezza, le missioni all'estero, il mantenimento delle truppe americane nascoste dietro la sigla NATO. Il neoliberismo è metabolismo sociale e si è infilato in ogni anfratto della vita, ha destrutturato la capacità di indignarci attraverso il linguaggio politicamente corretto, legalista e violento dei sindaci del PD, che hanno la responsabilità maggiore nell'aver introdotto la cultura poliziesca del sociale. La maggior parte della gente non si domanda più perché tante e tanti si rifugiano nelle stazioni, dormono negli aeroporti o negli ospedali, non si chiede perché, vuole soltanto non vedere, non essere disturbata da questa umanità dolente, e non si rende conto che il crinale che divide emarginati e cittadini legittimi si assottiglia sempre più. Solidarietà affettuosa e partecipata alle povere e ai poveri, a chi è costretto a sfidare tutti i giorni la miseria e a inventarsi la giornata. Con questo vi salutiamo e vi ricordiamo che questa è l'ultima trasmissione. È l'ultima trasmissione prima delle feste. Noi riprenderemo il 7 gennaio e speriamo che, non lo so adesso come è andata l'assemblea NOTAV, che cosa è successo eccetera, speriamo di poterci collegare. Se dovessimo riuscire a collegarci, potremmo girare il collegamento alla trasmissione che viene dopo, che prove tecniche di trasmissione, adesso vediamo. E comunque noi ci risentiamo il 7 gennaio, però in questi mercoledì di festa rimanderemo degli argomenti, monteremo degli argomenti che riteniamo più interessanti per un eventuale dibattito e li manderemo in onda nella nostra ora. Ciao a tutte, ciao a tutti, e un abbraccio particolare a tutte quelle e a tutti quelli che sono privati della loro libertà. Ciao. Never was a cornflake girl. Thought that was a good solution, hanging with the raisin girls. She's gone to the other side, giving us a yo-yo. Things are getting kind of gross, and I go at sleepy time. This is not really this is not really happening. You bet your life it is. You bet your life it is. Honey, you bet your life it's a bill out the watchword juice.